Bene, mi pare che ci siamo. Diciamo, un elemento che sicuramente si può considerare un elemento di continuità tra gli anni 60 e gli anni 90 è l'antiautoritarismo, la rivendicazione, diciamo, libertaria. Prendendo questa parola in modo molto vasto, non so se sapete che in inglese, tra l'inglese e l'italiano, c'è un problema di traduzione quando si tratta di queste parole che sono liberal, libertarian, liberist o liberista, anzi, liberist proprio non esiste. Si tratta di parole largamente usate ma che ricoprono uno spazio di significato un po' diverso. Allora, vediamone il significato, anche perché qui sono parole cruciali del lessico politico, ma anche del lessico diciamo ciberculturale di questi decenni. Partiamo dall'italiano, che forse lo capiamo di più. Liberale, liberista e libertario sono tre parole che significano tre cose. Naturalmente la libertà c'entra qualcosa in tutti i casi, ma la parola libertà, hai voglia, può significare quasi tutto e anche buona parte del contrario di tutto. Liberale è una parola che entra nel lessico politico fino dalla fine del Settecento, o comunque dal primo 800. E in italiano liberale, e in italiano anche in francese, nelle lingue latine, liberale è colui che vuole la libertà della società rispetto allo Stato, meglio, la libertà politica della società rispetto allo Stato. Politica, e questo perché la libertà economica è un argomento che viene affrontato piuttosto dal pensiero che in italiano noi chiamiamo liberista. Naturalmente un liberale può benissimo essere anche liberista, ma non è necessario che lo sia. Ci sono liberali che vogliono il Parlamento, la democrazia rappresentativa, la libertà di stampa e di parola, la libertà di associazione, tutte le cose che il liberalismo politico afferma, un liberale è essenzialmente un sostenitore della libertà politica e quindi è un nemico dell'autoritarismo di Stato, della dittatura politica e così via. Poi un liberale può benissimo essere anche liberista, nel senso che può anche ritenere che lo Stato non deve intromettersi nelle vicende economiche, ma questo non è necessario. Ci sono liberali come Piero Gobetti, per fare un nome, che è un pensatore liberale della prima parte del XX secolo, italiano, discendente dalla tradizione risorgimentale e liberale italiana, il quale ritiene che l'economia debba in qualche misura essere regolata dalla presenza dello Stato. Adesso qui veniamo all'inglese. In inglese, no, finiamo la classificazione in italiano. Dunque, liberale, libertà politica degli individui e delle organizzazioni rispetto allo Stato. Democrazia parlamentare, Costituzione. Queste sono le caratteristiche del liberalismo moderno, da John Locke in poi. John Locke è probabilmente fra i filosofi che stanno all'origine del pensiero politico moderno, quello che meglio esprime questa posizione del liberalismo. Altri ve ne sono, insomma, in Francia, che ne so, possiamo citare Montesquieu, il quale accentua gli aspetti istituzionali, la divisione dei poteri, eccetera. Insomma, il liberalismo moderno ha questa caratteristica, libertà politica degli individui e delle associazioni rispetto allo Stato. Nel corso dell'Ottocento un filosofo ed economista inglese di nome Adam Smith elabora una teoria che riguarda essenzialmente il rapporto fra l'economia e lo Stato. La tesi fondamentale di Adam Smith è che la vita economica, la dinamica economica deve essere lasciata interamente libera, perché nella massima libertà delle azioni economiche, della dinamica economica, si manifesta una forma di autoregolazione dell'economia medesima tale da produrre il massimo di produttività di una società ed il massimo di soddisfazione degli interessi di tutti gli attori economici presenti. Insomma, detto in poche parole, nessuno deve ficcare il naso nella azione degli agenti economici, delle aziende, dell'impresa e così via. Evidentemente questa posizione, che noi definiamo in italiano liberista, è finalizzata a criticare quello che potremmo chiamare statalismo economico o anche socialismo o, nei casi estremi, comunismo. Un liberista è nemico giurato di qualsiasi intervento dello Stato nell'economia e dunque di quelle forme di potere politico che si identificano con il potere dello Stato. Questo in italiano lo chiamiamo liberista. Un liberista può essere benissimo un liberale può essere un liberista, ma non è detto che lo siano. Ci sono liberali socialisti, ci sono liberali socialdemocratici, ci sono liberali che ritengono che la libertà politica possa, anzi debba, convivere con un intervento dello Stato nell'economia. E poi c'è una terza parola, che è libertario. In italiano libertario ha una connotazione molto radicale, praticamente analoga, se non identica, ma insomma analoga a quella di anarchico. Libertario è chi considera lo Stato come un nemico della libertà politica degli individui e ritiene che la vita politica, la vita sociale debba auto-organizzarsi senza rispettare la legge, il dominio dello Stato. Questa, diciamo, è la formulazione più estrema, più direttamente anarchica, ma in fondo in italiano libertario è molto vicino, è una parola che si avvicina molto alla parola anarchico. Non so se vi è mai capitato di sentire Marco Pannella, che in molte sue dichiarazioni afferma di essere liberale, liberista e libertario. La posizione dei radicali italiani ha effettivamente diciamo, ricopre l'intero spettro delle libertà: libertà politica, libertà economica, libertà da qualsiasi forma di invadenza dello Stato. Questa è la sua posizione, ma molti altri si possono dichiarare liberali in politica, socialisti o interventisti o keynesiani nell'economia, e ben pochi si definiscono libertari nel senso più radicale del termine. In inglese si fa sempre un po' di confusione, perché la parola liberal ricopre un campo di significato che equivale, che equivale certamente a liberale nel senso politico, ma che in molti casi si avvicina ad una posizione di sinistra socialdemocratica nel lessico italiano o europeo. Se in America voi dite di una persona che è un liberal, volete dire che è di sinistra, mentre in italiano se dite un liberale intendete che è insomma di centrodestra. Il Partito Liberale Italiano, quando esisteva, poi è stato risucchiato, non so bene da chi, ma il Partito Liberale Italiano era decisamente un partito di centrodestra. Mentre liberal negli Stati Uniti corrisponde, diciamo, a Obama, ma neanche proprio Obama. Sarebbe imbarazzato di essere definito liberal. La destra americana, quando attacca Obama, lo attacca proprio perché è liberal, cioè diciamo, la parola liberal contiene un elemento di liberalismo e di socialismo sul piano sociale, o comunque un'accentuazione della giustizia sociale che talvolta permette l'intervento dello Stato nell'economia. John Maynard Keynes, che è un economista molto importante nel XX secolo, perché come sapete è intervenuto sulle questioni della crisi del 29 suggerendo l'intervento dello Stato, anzi possiamo dire che Keynes è proprio colui che ha più programmaticamente sostenuto la necessità dell'intervento statale nelle questioni economiche, è un liberal. Nello spettro politico inglese o americano è definito decisamente come un liberal. Mai e poi mai avrebbe voluto la dittatura del proletariato o un dominio dello Stato sulla vita politica o il partito unico, tutte quelle cose che caratterizzano il socialismo. Niente di tutto questo. Lui sì voleva l'intervento economico dello Stato nell'economia, ma in un senso liberal, dunque libertà politica, ma possibile intervento dello Stato nell'economia. Libertarian, invece, in inglese, corrisponde ad una formula estrema di quello che noi chiamiamo liberista, cioè libertarian è colui che dice che lo Stato non deve in nessun caso intervenire nell'economia. Anzi, la formula che usa la destra libertario in Italia, i libertari stanno nei centri sociali, cioè generalmente una collocazione vicina agli anarchici, mentre libertarian in America è l'estrema destra, sono proprio coloro che rivendicano una assoluta indipendenza dell'economia rispetto allo Stato e che ritengono che the government is the problem, not the solution. La presenza dello Stato non è la soluzione, ma anzi è il problema. Dobbiamo ridurre la presenza dello Stato fino ad annullarla completamente. Ecco, dicevo questo perché la posizione della cibercultura fino dagli anni 60 è una posizione che si presta a molti equivoci, se lo dico dal mio punto di vista. Io ho cominciato a occuparmi di questi temi, diciamo, nei primi anni 80 e vengo, racconto il mio punto di vista non perché sia tanto importante, ma perché mi permette di capire un poco anche, diciamo, l'evoluzione interna alla cibercultura dagli anni 60 fino agli anni 90. Io vengo, come mi pare evidente, da una formazione di sinistra radicale e dal movimento studentesco italiano, che non è proprio identificabile col movimento studentesco di Berkeley. C'è una differenza che voi potete immaginare molto facilmente. In Italia l'influenza del Partito Comunista e delle ideologie socialiste o comuniste è un'influenza molto importante. In America, nel movimento studentesco, una posizione di tipo socialista o comunista esisteva, ma era molto minoritaria. La maggioranza del movimento studentesco americano considera tutto ciò che sta sotto la definizione comunismo come qualcosa di estraneo, di lontano, se non proprio di nemico. E questo, diciamo, uno studente, se nel 68 uno studente italiano incontrava uno studente americano, cosa che a me è capitata, capirsi non era proprio facile, per tante ragioni. La questione razziale, la questione del rapporto con il movimento nero, poneva un problema. Per noi era difficile riuscire a capire parole come black power, perché non avevamo mai vissuto il problema della presenza di una minoranza etnica così consistente come negli Stati Uniti. Il rapporto con la classe operaia per noi era un rapporto in fondo conosciuto, perché esisteva non un partito, ma diversi partiti della sinistra, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito di Unità Proletaria, che ci permettevano di conoscere la realtà operaia. E poi, perché in Italia negli anni 60 per il figlio di un operaio era possibile andare all'università, in America era più difficile, la stratificazione sociale era più dura. Ma la cosa forse più distante era proprio questa idea del rapporto fra lo Stato e l'economia. Beh, insomma, ho un po' perso il filo, mi sono dimenticato nella storia della cibercultura, gli anni 60 della storia della cibercultura. Quando io ho cominciato a occuparmi del tema cibercultura, mi pareva ovvio, importante, l'idea che le tecnologie informatiche e la rete come modello, mi pareva ovvio che questo avrebbe significato una maggiore libertà della società. Ecco, però questa era la mia versione europea, attribuiva una importanza secondaria alla questione della libertà economica e dava molta importanza alla libertà politica. Anzi, sarò più preciso ancora, la prima volta che io ho sentito parlare di rete, la rete, voglio dire, come quella cosa che noi oggi chiamiamo internet, è stato, se non mi sbaglio, nel 1982, leggendo un libro che si chiama Network Revolution, un libro che ho letto in California, per caso, e che Network Revolution, l'autore si chiama René Lavallée, nome francese ma lui è un californiano, e in Network Revolution questo tizio sosteneva una tesi molto interessante che mi colpì come il pugno nello stomaco. E lui diceva: la più grande trasformazione del XX secolo, la più grande battaglia del XX secolo è la battaglia fra il telefono e la televisione. tesi piuttosto ardita, ma forte, densa di significato. Cioè, lui diceva, la televisione è un modello autoritario, centrico, perché comporta l'esistenza di una centrale che trasmette e di tanti terminali che ricevono. Il modello del telefono è un modello democratico, perché non c'è nessun centro. Tutti possono entrare in contatto con tutti, da uno a molti e da molti a molti. Cioè, la televisione è il modello da uno a molti, il telefono è il modello da molti a molti. Ora, questa visione, per me aveva un significato un po' particolare, perché io negli anni 70 avevo partecipato ad un'esperienza che era quella delle radio libere, le prime radio libere del 76-77. E la radio di per sé sarebbe un modello centrico, un modello broadcast, c'è la stazione radiofonica e ci sono tutti gli ascoltatori con la loro radiolina. Però noi avevamo introdotto un'innovazione che per quell'epoca era scandalosa, era rivoluzionaria, oggi è del tutto banale, e l'innovazione era la diretta telefonica. Ora, la diretta telefonica cambiava la natura della radio. Perché? Perché tu stavi lì e parlavi di un argomento, ma il telefono squillava e noi per statuto davamo la voce a chiunque telefonasse non veniva filtrato ma veniva immesso nella comunicazione, e naturalmente chi parlava poteva dire le cose più contraddittorie con quelle che si stavano dicendo, proporre, chiedere, fino al punto, in alcune occasioni, nella radio in cui trasmettevo io, che aveva un carattere particolarmente radicale, fino al punto che si metteva in diretta anche la musica via telefono, nel senso che uno con la sua trombetta prendeva il telefono e ci faceva ascoltare delle note incomprensibili, ma questo era il modo di rompere il modello centrico. Ecco, noi avevamo fatto questo senza conoscere teorie mediologiche, che peraltro erano solo informazioni. Beh, non è vero, perché poi in realtà McLuhan lo conoscevamo, come no? A Bologna McLuhan aveva svolto una funzione importante fino dal 68, quindi dopo spiego che cosa c'entra McLuhan in tutto questo. Ma insomma, la radio, quella radio lì, la radio degli anni 70, non solo in Italia, ha una funzione innovativa rispetto al modello broadcast, che introduce il telefono nel flusso comunicativo. Per cui quando ho letto René Lavallée ho detto, ma vedi che avevo ragione io, che è proprio così che devono andare le cose, cioè che un mezzo di comunicazione democratica deve dare la prevalenza al telefono inteso non come quell'aggeggio lì, ma come un modello di comunicazione da molti a molti. E René Lavallée sosteneva che grazie agli sviluppi dell'informatica, grazie agli sviluppi della telefonia, prima o poi si sarebbe giunti ad un modello in cui il telefono avrebbe definitivamente cacciato la televisione e preso il suo posto. Ora, che è quello che è successo, insomma, internet è questo. Internet, il telefono che si mette al posto della televisione, cioè il telefono che incorpora lo schermo per sottoporlo ad un modello comunicativo di tipo reticolare e non di tipo broadcast. Devo dire che qualche anno prima era uscito un altro libro che ho già citato, che è L'informatisation de la société di Nora e Mink, 1977, Parigi. E in quel libro Nora e Mink avevano proprio sostenuto che la interconnessione tra telefonia e informatica, che loro avevano nominato telematica, avrebbe creato un nuovo sistema di comunicazione globale talmente trasformativo da rendere addirittura obsoleta la sovranità statale, perché la gente, le aziende avrebbero potuto comunicare in maniera orizzontale, senza rispettare più le barriere, le frontiere nazionali, e questo avrebbe generato una crisi non solo del sistema comunicativo, ma anche del sistema politico. Questo sostenevano Nora e Mink, un ingegnere Nora e un sociologo Mink, nel 1977 in un libro intitolato La formatizzazione della società. Dunque, quando io ho letto questo libro sulla Network Revolution, la rivoluzione delle reti, ho avuto la conferma da parte di un californiano del fatto che un nuovo modello tecnocomunicativo avrebbe potuto nel corso del tempo trasformare alla radice, naturalmente, le forme della comunicazione, ma indirettamente anche le forme di rapporto politico. Tra l'altro Lavallée, in modo abbastanza lungimirante, spiegava come, insomma, sosteneva che la televisione può essere paragonata ad uno stato totalitario, mentre il telefono può essere paragonato ad un'assemblea. E questo, diciamo, per la mia formazione era particolarmente convincente, mi permetteva di intravedere un certo divenire della rete. Ecco, bene, questa era la mia ricezione del problema da un punto di vista essenzialmente europeo. In America questo un mio collega, magari formatosi anche lui nel 68, avrebbe letto le stesse cose che leggevo io, ma anche avrebbe letto la totale indipendenza dell'economia rispetto allo Stato, cosa che io non vedevo, non mi interessava, non era quello il mio problema, mentre dal punto di vista della cultura politica americana questo è un punto rilevante, un punto centrale. Ecco, questo io negli anni Ottanta ci ho messo un poco per capirlo, diciamo che ho capito forse negli anni 90, ma all'inizio la cibercultura è la rivendicazione della libertà della società rispetto allo Stato in nome di un modello orizzontale della comunicazione, orizzontale in opposizione a verticale. Chiaro cosa vuol dire orizzontale? Orizzontale vuol dire tutti sono sullo stesso piano e interagiscono senza un privilegio di potere, senza una posizione broadcast. E dunque questa libertà della società rispetto allo Stato aveva un carattere che per me era ovviamente un carattere politico, mentre per la cibercultura americana poteva avere, tendeva ad avere anche un carattere essenzialmente economico. E, negli anni 90 questa divergenza di sensibilità, di percezione diventa più evidente, più chiara, quando all'inizio della formazione della rete diventa chiaro che per la cibercultura americana, tutta naturalmente, ma buona parte, direi la larga maggioranza, per la cibercultura americana la rete significava una conferma del modello economico liberista. Non c'è più nessun bisogno di un predominio dello Stato o di una presenza dello Stato all'interno dell'economia, così come non vi è più alcun bisogno di un centrale broadcast che predomini rispetto ai riceventi, ai terminali che ricevono l'informazione. Dunque, la traduzione di un modello di tipo comunicativo, reticolare, non soltanto sul piano delle forme politiche, ma anche sul piano del modello economico. Questo ribadiva, naturalmente, confermava, rafforzava ideologicamente una posizione di tipo libertarian, ovvero liberista. Naturalmente possiamo complicare il ragionamento e allora scopriremmo che libertà economica non significa necessariamente indipendenza dallo Stato, può significare delle cose più complesse, perché poi la libertà può essere violata non solo dallo Stato, ma poniamo dalle corporation. E allora, quando le corporation finiscono per prendere il posto, cioè grandi aziende a carattere globale che sviluppano un potere di tipo economico, ma poi anche di tipo politico e poi anche direttamente comunicativo, beh, allora a quel punto, se sei libertarian, se sei liberista, se sei contrario all'intervento dello Stato, ma apri la porta al dominio delle corporation private, quello è peggio che il potere dello Stato. E quindi, dopo gli anni 90, la questione del rapporto fra economia e comunicazione finisce per complicarsi ulteriormente e si giunge alla fine degli anni 90 ad una vera e propria spaccatura, diciamo così, all'interno del mondo della cibercultura. La cibercultura non è un partito, naturalmente, non esiste nessuna assise internazionale della cibercultura, però è un movimento molto vasto che si manifesta su piani differenti, prima di tutto ovviamente sul piano della visione tecnologica. Prima di tutto la cibercultura è una immaginazione relativa alle forme che la tecnologia cyber va sviluppando. Poi però la cibercultura ha anche una sua espressione letteraria o artistica che possiamo identificare a vari livelli. Per esempio, il cyberpunk è una manifestazione estetica, letteraria, della cibercultura intesa complessivamente. Poi esiste anche un ambito di espressione politica della cibercultura, però questa, come vi ho appena detto, è tutt'altro che identificabile in maniera unitaria. Ci sono, diciamo, se devo citare alcuni pensatori politici riconducibili all'ambito della cibercultura, posso dire alcuni nomi che forse conoscete. Uno, l'ho già citato tante volte, è Kevin Kelly, autore di Out of Control, direttore della rivista Wired, biologo di formazione ma studioso delle questioni comunicative, pensatore molto interessante, ma decisamente libertarian, nel senso inglese di liberista. Un secondo autore, prego. Io, forse mi è sfuggito un passaggio, non ho ben chiaro una cosa. La cyber, la cibercultura. O cybercultura, sì, mai capito bene. Si identifica con quello che a livello di network è il liberismo. No, no, cioè, no, no. Come si pongono a livello critico rispetto alla rete intesa negli anni 90 in America come liberismo? Ah, dunque, io sto proprio cercando di dire che non si identifica la cibercultura, cioè che nell'ambito della cibercultura, che non è riducibile ad un'ideologia o a una posizione unificata, le convinzioni ideologiche, politiche, sono differenti. Allora, io adesso Se vedevano nella rete il germe del liberismo a livello così astratto, quindi è diversa la posizione. Diciamo, è vero che la rete funziona in maniera tale da offrire un modello di autoregolazione classicamente liberista, che è poi il discorso che fa Kevin Kelly. Kevin Kelly nel suo libro Out of Control dice proprio: Internet è la mente globale, intreccio di, lui dice, telefoni, schermi, fili e cervelli, cioè questo è un insieme che mette l'organico e l'inorganico all'interno del medesimo flusso. La mente globale non può essere per definizione né conosciuta né tantomeno governata da menti subglobali. Le elementi subglobali sarebbero gli individui, i gruppi, i partiti, gli stati, insomma tutto ciò che non è la rete è subglobale. Come può una mente subglobale governare la mente globale? Non può, quindi la mente globale si regola da sé. E dunque, dice Kelly, questo conferma che la cosa migliore è rinunciare al controllo, da cui il titolo Out of Control. E dunque la posizione di Kevin Kelly può essere considerata come una legittimazione filosofica del liberismo, di un modello politico di tipo liberista, a partire dalla rete, come conferma di tutto questo. E un altro pensatore che ragiona su queste questioni è Pierre Lévy, autore di un libro molto noto in Italia che è L'intelligenza collettiva. Pierre Lévy si può collocare su una posizione molto vicina a quella di Kevin Kelly, anche se ragiona in modo, insomma, nell'intelligence collective, in questo suo libro, Pierre Lévy sostiene che la rete costituisce una sorta di soggettività, appunto di intelligenza collettiva, che si governa da sé, che non può essere governata dall'esterno. Un altro autore riconducibile alla cibercultura è Manuel Castells, catalano, autore di diversi libri come Il potere dell'identità, La società delle reti, però Manuel Castells ha una posizione molto diversa su questo punto, proprio perché riconosce che all'interno della rete si possono costituire delle super soggettività, come le corporation, che finiscono per acquisire un potere dominante all'interno comunicazioni di rete, e quindi lui dice non è vero che la rete di per sé confermi la forma libera della comunicazione o del mercato. Occorre invece, e lui poi fa tutto un discorso che è soprattutto sulla partecipazione, sulla creazione di organismi dal basso che siano capaci di governare la rete dal basso, non dall'alto, ma insomma introduce un elemento di critica nei confronti del modello liberista. E poi nel corso degli ultimi anni abbiamo posizioni come quella di Eugeni Morazov o quella di Gerhard Lofink, che sono altri pensatori interni al mondo ciberculturale che sono molto critici nei confronti degli sviluppi recenti di Internet, perché loro dicono se Internet nasce come una sorta di spazio libero, nel corso del tempo si sono costituiti all'interno di questo spazio libero, si sono costituite delle realtà dominanti che tendono a ridurre la libertà di questo spazio e a sottoporla a varie forme di dominio. Per dirne uno, fin dal 1995, quando Microsoft introduce con Windows 95 introduce Explorer, cioè una interfaccia di navigazione collegata al sistema operativo, molti ritengono che in questo modo si sia creata una sorta di dominio interno allo spazio libero della rete che tende a ridurre la libertà della rete medesima. Altri fanno osservare che la presenza della pubblicità come unica fonte di guadagno, quasi, per l'attività di rete, che non sia un'attività direttamente commerciale, la pubblicità costituisce un altro elemento di dominio e di riduzione della libertà. E poi c'è chi sottilmente fa notare come le reti sociali, particolarmente Facebook, che in questo è certamente il colosso assoluto, Facebook introduce non solo una limitazione di tipo economico, pubblicitario e così via, ma anche una limitazione di tipo propriamente cognitivo all'interno della rete, cioè la libera navigazione che caratterizza Internet nella sua fase originaria viene ridotta da un'azienda proprietaria, da una corporation che è Facebook, viene ridotta ad un unico modello comunicativo e cognitivo, per cui la molteplicità delle forme di manifestazione che Internet aveva in un primo periodo tendono ad essere sempre di più ridotte all'interno di una serie di schemi precostituiti di usabilità della rete, per cui che ne so, le forme di relazione sono ridotte a 4 possibilità, l'approvazione disapprovazione viene ridotta al mi piace, non mi piace, eccetera, eccetera. Provate a pensare ad una persona che scopra, non so, uno di 7 anni che accende per la prima volta in vita sua il computer e entra in Facebook, può pensare che quella sia Internet, anzi io credo che ormai la maggior parte degli utenti di Internet credono che Internet sia Facebook, e questo rappresenta una limitazione immensa della rete, ma soprattutto della percezione e della, come posso dire, competenza di navigazione rispetto a quello che Internet era e potenzialmente ancora è, ma vado a spiegare che fuori dal colore azzurro ci sono molti altri colori e molte altre possibilità. Facebook tende proprio ad assorbire tutte le modalità possibili di utilizzo in modo da cancellare l'esistenza del resto del mondo virtuale. Ma insomma, questo per dire che nel corso degli anni, dagli anni 60 agli anni 90, l'evoluzione della cibercultura è un'evoluzione che scopre nuove dimensioni, scopre anche dei conflitti, delle differenze, delle diversità ideologiche, politiche al proprio interno. Quindi la cibercultura è l'insieme delle culture che pongono al centro la trasformazione tecnologica cyber, quindi la trasformazione tecnologica introdotta dalla cibernetica, dall'informatica, dal digitale e dalla rete, ma questo non significa che la cibercultura è una ideologia in qualche modo unitaria, è invece un campo problematico molto differenziato, molto complesso. Ho accennato prima ad un nome, ad un autore che fino ad ora non ho quasi per niente, anzi che proprio non ho per niente preso in considerazione, e questo autore è Marshall McLuhan. Di McLuhan è indispensabile parlare, anche se la sua influenza principale sta al di qua della nascita e dello sviluppo della cibercultura propriamente intesa, però in un certo qual modo diciamo che non esisterebbe la cibercultura se non ci fosse stato, cioè detto così, insomma la cibercultura concettualmente si sviluppa all'interno di un ambito che McLuhan ha stabilito. Chi è McLuhan e in cosa consiste il suo contributo? Prima ho accennato a McLuhan dicendo che nella mia personale esperienza io ho cominciato a ragionare sulle questioni della rete all'inizio degli anni 80, leggendo un libro, Network Revolution, in cui si diceva appunto un giorno il telefono e la televisione si fonderanno e questo creerà una tecnologia di tipo orizzontale, democratico, eccetera, eccetera. Questa è stata la mia scoperta, il mio contatto con la cibercultura. E, come abbiamo già detto, la storia della rete inizia alla fine degli anni 60, quando il sistema militare americano costituisce ARPANET, collegando un certo numero di computer del sistema militare con il telefono in modo da impedire ai russi di distruggere quel computer e quindi l'intero sapere militare americano. Quindi la storia della rete è una storia lunga, però quando parliamo di internet parliamo di una realtà ramificata che diventa, diciamo, accessibile dal pubblico soltanto negli anni 90. Quindi cosa succede prima che la rete, da potenzialità tecnologica lontana, astratta, diventi una realtà sociale, una realtà comunicativa diffusa? Succede che per 20 anni, anzi qualcosa di più, il pensiero tecnologico, politico, sociologico ragiona su quello che la rete potrà cambiare nella realtà comunicativa e sociale. In questo ragionare un luogo, uno spazio, un ruolo assolutamente fondamentale ce l'ha questo Marshall McLuhan, che è un sociologo canadese di Toronto, il quale scrive nel 1964, quindi molto presto, molto prima che si possa cominciare a parlare anche solo di un congegno tecnico di tipo reticolare. ARPANET, dicevo, questa iniziativa del sistema militare americano di connessione telefonica fra diversi computer, viene concepita nel 1968 e realizzata nel 69, per cui il libro di McLuhan viene prima, nel 1964, lo stesso anno in cui Mario Savio stava pronunciando quelle parole. E nel 1964 McLuhan pubblica un libro intitolato Understanding Media, tradotto in italiano con il titolo Gli strumenti del comunicare. Cosa dice McLuhan in questo libro e più in generale nella sua opera? Beh, McLuhan ragiona su molti differenti media. Se voi sfogliate quel libro vi accorgerete del fatto che si tratta di un libro non sistematico, molto differenziato, quasi giornalistico nella sua struttura. I titoli sono Il telegrafo, la radio, la televisione, il giornale, il telefono, l'elettricità, il denaro, è una lista di media, e tra questi media ne mette alcuni che anche ci sorprendono, ad esempio il capitolo sul denaro, che è un capitolo, devo dire, molto bello, molto visionario. E beh, uno dice, ma cosa c'entra il denaro con i media? E invece McLuhan riesce a spiegare in modo molto convincente che il denaro può essere capito molto bene proprio se lo prendiamo in esame come un medium. La innovazione teorica essenziale che McLuhan porta nella storia della sociologia della comunicazione è condensata da una frase che tutti conoscono, anche all'asilo, e che è il medium è il messaggio. C'è un suo articolo che io in questo momento ho fra le mani, poi lo fotocopierò e ve lo distribuisco, che è un suo articolo che si chiama proprio The Medium is the Message. Cosa vuole dire il medium è il messaggio? Ecco, adesso racconto una questione, insomma illustro un concetto che in qualche modo è fondamentale nella storia della sociologia della comunicazione, anzi direi che la sociologia della comunicazione inizia nel momento in cui McLuhan dice the medium is the message. E quindi diciamo il contributo di McLuhan non può essere considerato come un contributo fra i tanti, ha carattere in qualche modo fondativo. Cosa dice McLuhan? McLuhan dice, fino ad ora noi abbiamo pensato che quando ci occupiamo di un medium, di uno strumento di comunicazione, se vogliamo capire l'effetto sociale di questo strumento di comunicazione, ci dobbiamo occupare dei suoi contenuti. Difatti, pensiamo, che ne so, a quello che dicevano i critici socialisti, nei confronti dei media, se la prendevano perché la radio o la televisione o i giornali facevano questa affermazione piuttosto che quest'altra, dicevano che il Papa è buono oppure che il Papa è cattivo, che il denaro è bello o che il denaro è brutto. Dunque i contenuti della comunicazione sono stati finora l'oggetto della critica sociale. La critica sociale si è fino ad oggi esercitata sui contenuti della comunicazione, errore, o almeno visione limitata, dice McLuhan, perché in realtà la comunicazione agisce sulla società non per quello che dice, ma per quello che è, cioè il medium, la struttura, la consistenza, la concatenazione che un medium implica è già il suo messaggio. Mi spiego, dice McLuhan. Se voi pensate a, torniamo al nostro esempio, telefono e la televisione. Prendiamo la televisione. Cosa fa la televisione? Voi la mettete lì, vi disponete intorno, seduti, possibilmente su un divano, e vi addormentate. Il vostro cervello si addormenta praticamente perché siete puri recettori di un messaggio con il quale non potete in nessuna maniera interagire. Adesso sto semplificando molto, ma insomma, tanto per capirci. Dunque, il medium televisione produce un effetto culturale, psichico, sociale, in ultima analisi politico, che vi trasforma in passivi ascoltatori di un flusso comunicativo del quale non siete, padroni. Prendiamo il telefono. Il telefono è tutt'altra cosa. Un medium come il telefono attiva i partecipanti alla comunicazione perché ciascuno di loro deve fare la sua parte. Nessuno è passivo e tutti sono invece interagenti in questo processo. Adesso, in realtà, poi la questione di McLuhan diventa più generale. Non riguarda solamente alcuni medium, ma riguarda quelli che lui definisce in generale i media elettrici. Allora, usa proprio l'espressione electric media, nemmeno electronic, siamo ancora proprio, diciamo, all'inizio del Novecento, in qualche modo. E McLuhan dice, nel corso del XX secolo, è successa una cosa straordinaria, cioè siamo passati da una configurazione sequenziale dei media, quella della cultura scritta, ad una dimensione configurazionale, cioè i media del passato avevano un carattere sequenziale, voi dovevate leggere una parola dopo l'altra, da sinistra a destra. O da destra a sinistra se siete arabi, e comunque dovete seguire lo svolgimento del testo. Questo vi dà la possibilità di rileggere, fermarvi, criticare quello che avete letto, ritornare alla prima pagina. Insomma, il medium sequenziale, la scrittura, crea un ambiente che è l'ambiente caratteristico proprio della modernità, l'ambiente della capacità critica. Mentre, dice McLuhan, quando entriamo nella sfera dei media elettrici, per esempio la televisione, ma anche semplicemente la luce elettrica, anche la luce elettrica per McLuhan è un medium, anzi, è il medium di tutti i medium, non c'è passaggio alla comunicazione configurazionale o simultanea senza la luce elettrica. Cosa fa la luce elettrica? Tanto per cominciare, ci comunica una cosa immediata, che è subito evidente, non c'è un prima e un dopo, non c'è un in mezzo. Non c'è sequenzialità, cioè simultaneità, c'è la luce invece che il buio. Ecco dunque che il passaggio da uno stato all'altro non è un passaggio sequenziale, poco alla volta, leggendo parola dopo parola, capisco che cosa mi è stato detto e dopo averlo capito posso dire sono d'accordo, oppure posso dire non sono d'accordo, sono critico, perché ho la possibilità di leggere in sequenza. Ma se voi accendete la luce o la spegnete, c'è poco da essere critico. Prima siete al buio e dopo siete alla luce. Entrate in una dimensione che è quella della simultaneità o anche configurazionalità, nel senso che non avete più dei segni scritti, dei segni che significano, avete delle configurazioni, delle immagini. L'immagine tende a prendere il posto della parola, del segno sequenziale. Quando la comunicazione passa dalla sequenzialità alla simultaneità configurazionale, dice McLuhan, il pensiero tende a uscire dalla sfera della critica per rientrare nella sfera della mitologia. La mitologia, cos'è la mitologia? È il modo di funzionamento del pensiero umano prima che esistesse la scrittura. Quando non c'era la scrittura, noi ci dovevamo raccontare delle grandi storie. Dio ha creato la terra, ha lanciato un tuono, e poi, insomma, ci raccontavamo delle grandi storie, miti, e questi miti ci permettevano di comprendere il mondo. Poi è venuta la scrittura, e la scrittura ci ha permesso di passare dal mito alla critica, perché la scrittura, grazie alla sua forma sequenziale, cioè in frammenti rivedibili, rileggibili, ripercorribili, permette al pensiero umano di valutare in sequenza vero o falso di fronte ad ogni enunciato. Ma quando dalla sfera della scrittura entriamo nella sfera elettrica, simultanea, configurazionale, ecco che il pensiero sempre meno riesce ad esercitare la critica e sempre più tende a rientrare nella sfera della mitologia. Guardate che queste cose McLuhan le ha dette nel 1964, Berlusconi ha preso il potere nel 1994, ma in realtà Berlusconi è la dimostrazione del fatto che McLuhan aveva ragione. La gente ha smesso di esercitare la facoltà critica ed è rientrata all'interno di una forma mitologica della comprensione del pensiero e anche naturalmente della scelta politica. Riesco a spiegarmi? Sì, è semplice, ma la rottura che McLuhan ha compiuto con questa sua intuizione, che al tempo stesso è sociologica e comunicologica, ma è anche politologica in un certo senso, la rottura compiuta da McLuhan è una rottura formidabile, fondamentale. Cioè McLuhan permette di comprendere il fatto che i media comportano delle trasformazioni di contenuto anche semplicemente per la loro forma. Non occorre chiedersi, ma la televisione dice la verità o dice delle bugie? Il punto non è questo. La televisione può dire quello che gli pare, in ogni caso produrrà una segmentazione della società, una trasformazione materiale della audience, che la audience però è il pubblico, è la società medesima. La televisione produrrà necessariamente una trasformazione passiva del pubblico, così come necessariamente il telefono crea una partecipazione alla comunicazione che ha caratteri del tutto diversi da quelli che la televisione produce. Insomma, McLuhan con questa trasformazione concettuale relativa al funzionamento sociale dei media, in qualche modo apre la storia della sociologia della comunicazione. Il suo libro Understanding Media viene pubblicato nel 1964. Negli anni successivi il pensiero di McLuhan ha un rilievo importante. Io ricordo che nel 68 in Italia viene tradotto un suo articolo intitolato per l'appunto Il Medium e il Messaggio, e che negli anni 70 il pensiero di McLuhan comincia ad avere un'importanza notevole, per cui prima gli facevo riferimento all'esperienza delle radio libere in Italia. Io ho partecipato ad una esperienza che si svolgeva nella città di Bologna, e nella città di Bologna, tra le altre cose, insegnava Umberto Eco in quegli anni. Umberto Eco, che voi conoscete come semiologo, filosofo, è anche forse il primo che introduce McLuhan, credo, nel dibattito teorico italiano, e quindi molti dei partecipanti all'esperienza della radio che a cui ho partecipato anche io avevano studiato al DAMS bolognese con Umberto Eco, quindi conoscevano McLuhan. Insomma, McLuhan svolge già una funzione importante nel corso degli anni 70 e a maggior ragione ha una importanza fondamentale nella formazione di quella che chiamiamo cibercultura, perché poi cosa è in ultima analisi da questo punto di vista la cibercultura? È una sorta di dimostrazione del fatto che un medium come il medium reticolare non cambia soltanto le forme tecniche della comunicazione, ma apre un mondo culturale, estetico, politico, di tipo radicalmente innovativo. Chiuso questo argomento, vi farò avere questo, insomma, qualcosa di McLuhan appena possibile. Fotocopierò questo testo. Intanto mi viene in mente che c'è questo pacchetto di fotocopie, di cui mi restano però una copia per te. Grazie. Ho chiesto a Dimitri se poteva prendergliene una. Tu non ce l'hai? Come? Aveva chiesto a Dimitri, il ragazzo con gli occhiali, se potevo prendergliene una copia in più. Adesso sai che non ne ho abbastanza, certo, in realtà, ma le faremo. Se ce l'hai tu gliela dai e gliela fai fotocopiare, perché così allora tu ce l'hai? Sì, fatta guarda. E anche lei, e questa è l'ultima, allora ve la fotocopiate. Adesso spiego di che si tratta, adesso lo spiego. Ma lei? No, da te. Soltanto qualcuno dovrà fotocopiarsela. E c'è anche questo. Io sto aspettando ancora il certificato che è andato. Allora, che cos'è questo testo che vi ho dato? È un capitolo del libro di Antonio Caronia. Ripeto che questo corso è concepito su un doppio livello. Da una parte cerco di raccontare i percorsi della cibercultura dagli anni 60 agli anni 90, ma dall'altra cerco di introdurre alcuni concetti che proprio sul tema cibercultura ha sviluppato Antonio Caronia nei suoi libri, in particolare in questo Cyborg, che è un libro del 2001, in cui fra le altre cose c'è un capitolo, La tecnologia sotto la pelle, che voi potrete leggere a questo punto, che è un capitolo dedicato alla, beh, essenzialmente al cyberpunk, all'emergere del mondo immaginario che chiamiamo abitualmente cyberpunk. Prima di tutto Caronia fa riferimento alla figura essenziale del cyborg. Cos'è il cyborg? Beh, organismo cibernetico, è un ibrido, è una figura che contiene al proprio interno realtà differenti, insomma è un incrocio, una contaminazione, un innesto di realtà diverse. Il cyborg è l'ibrido per eccellenza, perché tiene insieme un elemento organico, l'organismo, una realtà vivente, e un elemento di inorganicità, o diciamo una essenza cibernetica che elettronica. E questo dell'incontro e dell'innesto tra elettronica e materia organica è uno dei temi più caratteristici della cibercultura, soprattutto sul piano estetico. La definizione che Kevin Kelly dà della rete, ad esempio, a un certo punto lui parla proprio, lo dicevo prima, della rete come un intreccio di telefoni, schermi, fili e occhi e cervelli. È un buon modo per descrivere la rete, no? Ed è un modo che entra proprio nel carattere essenzialmente ibrido di questa realtà, ma l'inserimento dell'inorganico all'interno dell'organico apre una questione che fuoriesce dall'ambito dell'informatico del digitale, e entra piuttosto nel campo della biotecnologia, nel campo delle tecnologie che trasformano non solo la comunicazione, ma l'organismo come organismo fisico. E questo è il tema essenziale della letteratura cyberpunk, cioè un tema che ci porta proprio al carattere paradossale, al carattere paradossale di una realtà vivente che incorpora al proprio interno degli elementi di inorganicità, di non vivente. Ho già citato il titolo di un libro di Mario Perniola che è molto significativo, il titolo anche il libro, ma il titolo è molto impressionante e suggestivo. Il sex appeal dell'inorganico è il titolo di questo libro di Pagnol, è un libro del 1994, quindi diciamo piena epoca cyberpunk. Il sex appeal dell'inorganico è un buon modo per sintetizzare le questioni che il cyberpunk pone soprattutto al pensiero estetico, alla sensibilità e così via. Come può l'inorganico avere sex appeal, per l'appunto? Cioè come può l'inorganico produrre un effetto di attrazione, di seduzione e anche di piacere? È una delle grandi questioni che la cibercultura si pone prima di tutto sul piano artistico e sul piano letterario. Per l'appunto il cyberpunk in fondo è tutto centrato su questa questione, però non soltanto la questione non si pone soltanto sul piano estetico, naturalmente. Una scrittrice, filosofa, femminista americana di nome Donna Haraway che è autrice di una cosa che si chiama Manifesto Ciberfemminista, proprio mi pare che sia, ha ragionato su una questione che è la questione del post-human, cioè la sua tesi è che la definizione tradizionale, moderna, dell'umano è una definizione limitata, limitante, perché l'idea secondo cui umano è soltanto ciò che appartiene alla sfera dell'organico. Donna Haraway dice anche che la definizione di umano è una definizione essenzialmente maschile. Umano è la sfera di pertinenza di una cultura essenzialmente maschile. L'entrata in campo, il titolo di uno scritto, di un libro di Donna Haraway è Simeon, Cyborgs and Women, Scimmie, Macchine, Cyborg e Donne. E la sua tesi, la tesi che lei collega a questo titolo, è che l'entrata in campo, nel campo della cultura, della donna come soggetto e non semplicemente come oggetto di discorso rompe i limiti che l'umanesimo maschile ha costituito. Ma allo stesso modo, dice Donna Haraway, la macchina rompe i limiti di una definizione puramente organica della sfera dell'umano. L'umano deve ridefinirsi assumendo al proprio interno il femminile e dall'altra parte assumendo al proprio interno il macchinico. Il macchinico ridefinisce quindi l'ambito della sfera umana. Bene, questo capitolo, la tecnologia sotto la pelle, è un tentativo di definire il cyborg proprio dal punto di vista dell'inserimento sotto la pelle, in senso biologico, biotecnico, di congegni che modificano la percezione di sé che gli esseri umani hanno tradizionalmente avuto. Un riferimento ovvio è quello che Caronia mostra subito nella prima pagina, Videodrome di Cronenberg è probabilmente il più più, direi, smaccato, più evidente, quasi brutale esempio di questa ridefinizione dell'umano come ridefinizione dell'organico, l'organico che viene fagocitato, mangiato dallo schermo e che a sua volta introduce al proprio interno elementi di elettronica, la protesi, ma poi in fondo l'elettronica in generale, ecco, il fatto che la comunicazione interumana diventi sempre di più comunicazione attraverso protesi di tipo elettronico, significa che la sfera dell'umano incorpora al proprio interno l'inorganico come elemento che lo definisce. In questo capitolo Caronia inizia con una valutazione degli effetti che il cyborg sta producendo nella cultura e nell'immaginario. Naturalmente parte dalla citazione di alcune opere come Blade Runner, di cui abbiamo già parlato a varie riprese, ma anche, ecco che qui lui cita L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel, Terminator di James Cameron, insomma un certo numero di film che sono centrati su questo crisi dei limiti dell'umano come organico, e naturalmente Videodrome di Cronenberg, Existence ancora di Cronenberg. Ecco, poi partendo da questo piano, cioè alcun piano estetico, cinematografico, partendo da alcuni film che hanno introdotto la tematica della ciborghizzazione dell'organismo, insomma della inserzione dell'inorganico all'interno dell'organico, partendo di qui, ecco che Caronia va a concludere su William Gibson, e l'ultima parte del capitolo che vi ho dato, se mi ricordo bene, è dedicato proprio alla letteratura di cyberpunk, passando attraverso, ecco, questo è un capitolo, io l'ho scelto perché mi pare di tutto il libro il capitolo più ampio per quel che riguarda la storia dell'estetica, la storia dell'arte contemporanea. Infatti c'è una prima parte che è essenzialmente dedicata al cinema, Cronenberg, Ridley Scott, Cameron, Siegel e qualche altro. Poi c'è una parte intermedia dedicata al concetto di realtà virtuale, alla formazione del concetto di realtà virtuale e ai primi esperimenti di realtà virtuale. Qui a un certo punto, a pagina 84, troverete un riferimento molto centrale a Jaron Lanier. Non ne abbiamo mai parlato di lui. Jaron Lanier è un ingegnere essenzialmente, però è anche un teorico, è un ingegnere che crea le prime applicazioni di realtà virtuale nel corso degli anni 80. Praticamente crea il Data Glove, cioè una specie di congegno composto di un guanto e di un casco che ci permettono di entrare all'interno di un mondo tattile, percettivo, visivo, uditivo, che simula un ambiente. Il primo esempio di tutti è la pallina da ping pong buttata contro un muro e ricevuta nella mano in forma puramente virtuale, non c'è nessuna pallina, nessun muro, però il sistema permette di ricevere nella mano la stimolazione tattile della pallina, la stimolazione visiva, eccetera, eccetera. Poi vengono sviluppate tecnologie con geni molto più complessi su questo piano, ma insomma il modello concettuale della virtual reality è questa e viene concepita per l'appunto da Jaron Lanier. Dopodiché Caronia passa a parlare della letteratura, quindi dal cinema alla realtà virtuale fino alle opere letterarie che nel corso degli anni Ottanta, stiamo essenzialmente riferendoci agli anni Ottanta, ma ripeto, il libro di Caronia è pubblicato nel 2001 e si tratta di articoli, di testi scritti prevalentemente nel corso degli anni 90, quindi la sua attenzione è concentrata molto sugli anni Ottanta come anticipazione di quello che poi succede negli anni 90 e i libri ai quali gli autori, i libri a cui fa riferimento in questa ultima parte del testo che vi ho dato sono William Gibson, Neuromans, tanto per cominciare, ma poi anche Sterling, Bruce Sterling, autore di romanzi cyberpunk come Mirror Shades e vari altri, e poi chi altri cita qui? Ma insomma, Brian McHale, vabbè, questo è quanto. Questo è il testo intitolato, non mi ricordo più, La tecnologia sotto la terra. Poi io vi ho dato alcune pagine, nemmeno un intero capitolo, ma parte di un capitolo, che iniziano con, ecco, come si chiama? Ancora Cyberspazio. Questo è un capitolo tratto dal libro Archeologia del Virtuale, sempre edito nel 2001, e come vedrete questo è, diciamo, un capitolo più specificamente dedicato alla letteratura cyber e particolarmente a William Gibson, che è certamente l'autore più noto, più importante di questo filone. E in questo capitolo, intitolato Ancora il cyberspazio, in realtà un paragrafo preso dal capitolo, ci vengono presentati una serie di romanzi di William Gibson che testimoniano della evoluzione della letteratura cyberpunk tra gli anni 80 e gli anni 90. Ecco, io direi che con questo abbiamo iniziato una lettura di, adesso insomma chi vuole può leggersi queste cose qui. Io vorrei continuare nel prossimo futuro presentandovi un altro libro di Caronia insieme con Domenico Gallo, che è il libro dedicato a Philip Dick. Di Philip Dick abbiamo accennato a più riprese, ma senza mai davvero entrare nell'argomento, lo voglio fare nel prossimo futuro. Philip Dick è uno scrittore californiano, ancora una volta, che vive e scrive tra gli anni 60 e gli anni 70. Mi pare che sia morto all'inizio degli anni 80. Quindi è difficile catalogarlo proprio come cyberpunk, viene un po' prima, ma in realtà è forse quello che meglio di ogni altro riesce ad esprimere l'insieme delle tematiche estetiche e filosofiche della cybercultura. Philip Dick non è un filosofo, anzi è un tipo molto grezzo, molto popolare, qualche volta è anche, diciamo, brutale nelle sue, ma è un genio assoluto dell'immaginazione psichedelica, probabilmente a causa delle droghe delle quali non si, insomma, che gli piaceva prendere, ma anche a causa della sua formazione tutta interna alla fantascienza popolare, Philip Dick riesce a tradurre in termini immaginativi molto ricchi, molto popolari, devo dire. Dick è uno scrittore di fantascienza, è uno scrittore pop, ha scritto 143 o 46 romanzi, una enormità di roba, anche perché si guadagnava da vivere in questa maniera, e il suo lavoro di scrittore è un lavoro proprio, è molto non è un intellettuale, voglio dire, non è un William Gibson già ha un approccio molto più consapevole, raffinato, letterario. Philip Dick è proprio uno scrittore di genere, uno scrittore popolare, ma alcune delle sue intuizioni sono di una densità filosofica straordinaria, quasi inconsapevole qualche volta. E l'approccio a Philip Dick ci permetterà, da una parte, di ritornare sulla solita questione del rapporto fra gli anni 60 e gli anni 90. E gli anni 60 sono quelli in cui Philip Dick si forma e entra nel mondo della psichedelia. Quindi la cultura psichedelica è molto importante nell'ambiente californiano degli anni 60, e ovviamente la cultura psichedelica è importante anche per capire esperienze come quelle che passano attraverso la realtà virtuale e che giungono a internet e così via. Dunque Philip Dick è un uomo degli anni 60, è un uomo della cultura psichedelica, però tenta di tradurre tutto questo, dal momento che scrive libri di fantascienza, tenta di tradurre tutto questo nei termini della tecnologia, di una tecnologia fantasiosa, non è la tecnologia vera, è una tecnologia fatta molto spesso di immaginazioni totalmente irreali, a differenza di William Gibson. William Gibson non racconta mai balle quando si tratta di tecnologia, ha una conoscenza molto diretta, molto contemporanea, però Gibson scrive i suoi libri negli anni 80 e 90, mentre Philip Dick è un po' precedente. Quindi la sua è immaginazione scatenata che mescola il livello della psichedelia con il livello della tecnologia, ma soprattutto ci introduce a quello che direi è il mondo filosofico delle ciberculture, che potremmo definire, e poi questo lo svilupperemo più avanti, potremmo definire come mentalismo tecnologico, mentalismo, cioè tutto accade nella mente. L'idea fondamentale che sul piano filosofico ci viene presentata dalla cibercultura è che la separazione fra mente e mondo, che è una separazione diciamo fondamentale nella storia del pensiero filosofico occidentale, cioè la mente, c'è il mondo, la mente deve conoscere il mondo deve, deve essere rappresentato dalla mente. Ecco, questa separazione a un certo punto comincia un poco a indebolirsi. Sempre di più quello che accade nella sfera del mentale diventa il mondo, internet è questo. Possiamo dire che internet è irreale, non c'è niente di più reale di internet nel nostro tempo, e però non possiamo dire che internet sia fisicamente coestensivo al mondo, è una sfera separata rispetto al mondo, è una sfera che nasce dalla mente umana, è in ultima analisi una realtà virtuale, però una realtà virtuale che finisce per invadere il mondo. Il concetto stesso di virtuale, da questo punto di vista, è filosoficamente interessante. Il virtuale, possiamo definirlo come irreale? Ma naturalmente no. La finanza cambia completamente grazie alle tecnologie virtuali, e dunque non c'è nulla di più decisivo nel mondo reale contemporaneo del virtuale. E però possiamo parlare del virtuale come qualcosa di toccabile, maneggiabile, fisico? No, il virtuale è la realtà senza materialità, la realtà senza corpo. Ecco dunque che la tradizionale distinzione filosofica che da Aristotele in poi rappresenta fondamento del pensiero occidentale, la tradizionale distinzione filosofica tra mondo e mente, entra in crisi. Non che la filosofia non lo avesse già pensato, ci sono dei pensatori nella storia che avevano in qualche modo interrogato, messo in questione la separazione fra mente e mondo, però quella separazione in fondo aveva costituito uno dei pilastri della storia filosofica e diciamo pure della percezione comune fino all'ingresso nel nostro mondo della quella che possiamo chiamare in senso lato la realtà virtuale. Bene, Philip Dick nella sua immaginazione letteraria rompe questa separazione, porta i fantasmi nel mondo e trasferisce il mondo in una sfera fantasmatica, se vogliamo, ma fa questo grazie all'intuizione sull'evoluzione delle tecnologie di comunicazione elettronica. Ecco, perciò l'ultima parte del mio corso sarà dedicata un poco, poi adesso vediamo se, insomma, senza stare a limitarci troppo, però sarà dedicata in buona parte a una riflessione su Philip Dick, riflessione che Caronia ha fatto molto meglio di come possa farla io. Questo libro è un libro bellissimo secondo me, per molte ragioni, è anche molto divertente, come è stradivertente Philip Dick. Philip Dick è uno scrittore travolgente per certe cose. Gibson qualche volta può annoiare, è un po' cervellotico, e Philip Dick è proprio... Vabbè, basta così. Dunque, noi ci rivediamo venerdì prossimo, non mercoledì, mi scuso, mercoledì prossimo non posso esserci, e poi ci rivediamo mercoledì e venerdì della settimana successiva, e poi non ci rivediamo mai più. E ci restano venerdì 17, mercoledì 22, venerdì 24, queste sono le mie ultime tre lezioni. Nel frattempo io vi spedirò, se ho le vostre, però io non ho il l'indirizzo email di tutti, ne ho alcuni. Se volete, dunque dovete firmare, mi spiace, ho dimenticato, Chiara non l'ha firmato, non è lo stesso. Firmate, e chi non mi aveva scritto il suo indirizzo email me lo può scrivere qui, il tuo email sotto. Sì, lì sotto, qui sotto, così io riporto tutti i vostri indirizzi e nelle prossime due settimane vi faccio avere un altro poco di materiale, già un po' ve lo darò in forma di fotocopia, ma magari qualcos'altro ve la mando. Come? No, la fotocopia non te la faccio perché te la fai. No, dico la prossima volta. La prossima volta la faccio anche per te. Ma intanto io, se tu mi scrivi no, tu in inizio in me. Se mi scrivi su questo foglio che ti arriverà fra un poco il tuo indirizzo email, ti mando un po' di roba. Ah, va bene, allora sì. Magari ti scannerizzo queste cose qua e te le mando in formato scanner. Possiamo fare così invece delle fotocopie magari facciamo così. Sì. Beh, però sai, se ci sono 50 pagine preferisco fotocopiare. No, chiaro. Comunque, per chi volesse fare questo esame, capite bene che l'esame verterà sui testi di cui disponete, non sulle cose di cui ho parlato. E le cose di cui ho parlato sono... I testi che ci ha dato Carmina. Come dici? I testi che ci ha dato Carmina. I testi sono questi, due che vi ho dato oggi, altri che vi manderò. Questi libri, se uno si vuole comprare uno di questi libri di Carmina... si legge. No, intendevo i libri che ci aveva dato Caronia. No, Caronia vi aveva dato Wundburger, sì. E io non sono in grado di fare il test su quel libro. Se tu vuoi preparare quel, me lo racconti, a me va benissimo, eh? Anzi, mi fa il piacere che mi eviti la fatica di leggerlo. Ma i testi che propongo io sono questi. E no, vi avevamo comprato già tutti. Cosa? Lo hanno comprato già tutti, lo so, l'ho visto. Vabbè, leggilo e me ne parli. No, non sto scherzando, se mi parli di Wundburger va benissimo. E, inoltre c'è il libro di Turner, di Fred Turner, questo From Counterculture to Cyberculture, di cui ho il PDF che mi ha fatto avere Elena e che io vi posso far Elisa, che io vi posso far avere. Ecco, questa è un'altra cosa che vi farò avere. Quello è un libro consistente che non necessariamente dovete leggere, ma insomma avete un certo numero di testi, ne scegliete uno e all'esame un testo basta.